5H. Ascolta e replica. Noi siamo italiani. Anche noi siamo italiani. Noi siamo qui in vacanza. Anche noi siamo qui in vacanza. Noi siamo in segreteria. Anche noi siamo in segreteria. Noi siamo stanchi. Anche noi siamo stanchi. Noi abbiamo tempo libero. Anche noi abbiamo tempo libero. Noi abbiamo una proposta. Anche noi abbiamo una proposta. Noi abbiamo fame. Anche noi abbiamo fame.